Carissimi ascoltatori, buonasera. Proclamiamo nuovamente il credo o simbolo degli Apostoli. Io credo in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna. Amen. Questa sera diamo una breve spiegazione all'espressione patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso. Dopo che il credo ha proclamato la concezione di Gesù per opera dello Spirito Santo nella Vergine Maria, e dopo che ha parlato della sua nascita, passa direttamente alla sua morte, saltando a pie pari tutta la vita di Cristo. Abbiamo detto, fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso. I nomi di Maria e di Pilato sono citati uno dopo l'altro in una prossimità che colpisce. Cosa ci sta a fare lì Pilato accanto a Maria? Può sembrare una dissonanza sgradita, mentre in realtà è solo una dissonanza ardita che ci deve far pensare perché queste due persone non si sono trovate lì accanto nel credo così a caso. In qualche parte d'Italia, quando uno caccia il naso in un discorso già avviato e straparla, si usa dire «tu c'entri come Ponzio Pilato nel credo». Sembra che quest'uomo ci sia dentro a dispetto dei santi. E invece no. Maria e Pilato una dissonanza ardita. Mediante loro due il Figlio di Dio si è veramente incorporato all'umanità. Alla nostra razza umana attraverso sua madre umana, Maria, alla nostra storia umana, civile, politica, mediante Ponzio Pilato che rappresentava l'impero romano. Maria e Pilato, Maria l'amore che fa vivere Gesù, Pilato l'egoismo che lo fa morire. Maria la madre di Dio, Pilato l'assassino di Dio. E queste due persone rappresentano e riassumono in se stesse l'umanità intera, la migliore e la peggiore, tutti noi. E credo ci presenta una verità sconvolgente per un verso e bellissima per un altro. Patì, Gesù Cristo, Figlio di Dio, patì. Diciamo subito, leggendo seriamente e serenamente i Vangeli, che Cristo non ha cercato la croce, non ha torturato se stesso, anzi, di fronte alla passione ha sudato sangue, ha gridato la sua paura, ha supplicato di essere liberato dalla morte. Leggo dalla lettera agli Ebrei al capitolo 5. Nei giorni della sua vita terrena, egli, Cristo, offrì preghiere, suppliche, conforti, grida e lacrime a colui che poteva liberarlo da morte e fu esaudito per la sua pietà. Pur essendo figlio, imparò tuttavia l'obbedienza dalle cose che patì e, reso perfetto, divenne causa di salvezza eterna per coloro che gli obbediscono. Quindi Gesù non è stato uno che è andato a cercare la croce, non è andato a cercarsi la tortura, non è stato neanche uno che ha voluto anticipare la propria morte, non era un fanatico, non era un balordo. Patì sotto Ponzio Pilato, noi uomini da sempre stiamo aspettando una risposta alla nostra sofferenza. Questo Cristo che patì sotto Ponzio Pilato è forse la risposta di Dio al mistero della sofferenza degli uomini? Ogni uomo cozza duramente contro la sofferenza, non se ne sa dare una ragione e non ne vede l'utilità per nessuno, né per sé né per gli altri, né tantomeno per Dio. Cosa se ne fa Dio delle mie sofferenze? Cosa me ne faccio io? Che utilità danno agli altri le mie sofferenze? E allora l'uomo continua e si pone la domanda: perché allora devo soffrire? Per chi devo soffrire? Questa domanda l'aveva già esposta in un modo veramente convincente e brillante 300 anni prima di Cristo Epicuro. Faceva questo ragionamento: o Dio vuole sopprimere il male e non può, e allora è impotente, e io aggiungo subito: cosa ce ne facciamo di un Dio impotente? Oppure non vuole e non può, e allora questo Dio è niente. Oppure Dio può sopprimere il male e non vuole, e allora è maligno, è lui che ci vuol vedere soffrire. O infine può sopprimere il male e vuole sopprimere il male, e allora dov'è questo Dio e da dove viene il male? Queste domande formulate da un filosofo vengono formulate tranquillamente da ogni uomo, ogni donna, istruito o non istruito, perché l'interrogativo del perché il male morale, perché la sofferenza fisica, perché devo soffrire io, perché devono soffrire gli innocenti, perché quando si vede soffrire un colpevole in qualche modo si trova una risposta, una scappatoia, paga le sue malefatte. Ma quando si vede un bambino appena nato che soffre, si vede un bambino piccolo che muore, si dice: ma perché, che male ha fatto quello lì? È lo scandalo del dolore innocente, ma se volete questo scandalo è ancora più cocente, e lo aveva capito colui che era crocifisso accanto a Gesù sulla croce. Cristo figlio di Dio, che è più innocente di un bambino appena nato, perché ha sofferto? Lui che cosa ha fatto di male? Si chiedeva il crocifisso compagno di Gesù. Ecco, allora i filosofi cristiani, pagani e atei hanno tentato delle spiegazioni sul dolore, è il loro mestiere, e facciano pure il loro mestiere. Cristo, il giusto, non tenta nessuna giustificazione della sofferenza e della morte. Gesù Cristo non si è messo in cattedra dicendo: adesso vi faccio un po' di lezioni sul significato della morte, sul significato del dolore. No, Cristo non è venuto a filosofare. È venuto a fare, questo sì. E allora Gesù Cristo, invece di darci lezioni e spiegazioni, è venuto per combattere e per distruggere definitivamente ogni forma di dolore, ogni forma di sofferenza e di morte. La ribellione degli uomini contro la sofferenza e la morte è anche la sua. Egli guarisce i malati, risuscita i morti, lotta per gli umiliati, gli emarginati, quelli messi sotto i piedi dai potenti, dai ricchi, dai soliti crapuloni, perdona i peccatori, e ognuno di noi sa che dolore, che tragedia è sentirsi dentro il peccato sulla coscienza, e a tutti insegna: amate i vostri nemici, fate del bene a coloro che vi odiano, benedite coloro che vi maledicono, pregate per coloro che vi maltrattano. A chi ti percuote sulla guancia, porgi anche l'altra. A chi ti leva il mantello, non rifiutare la tunica. Siate misericordiosi, non giudicate, non condannate, perdonate. Questo è l'atteggiamento di Cristo e questo deve essere l'atteggiamento del cristiano. Perché diversamente anche noi siamo presi da quella stupidità universale di chi, quando viene percosso, umiliato, si ribella percuotendo e umiliando a sua volta, per cui prima c'era un sofferente, poi ce ne sono due, prima c'era un umiliato, poi ce ne sono due, ossia crediamo di eliminare il male moltiplicando il male, mentre il male si vince solo con il bene. Gesù di tutto questo che ci ha insegnato nel Vangelo, ha dato anche l'esempio sulla croce, ha gridato contro il male che gli hanno fatto, ma non minacciando vendetta, ma dicendo: Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno. Non sanno vuol dire sono semi-infermi di mente, sono stupidi. Chi fa il male è sempre stupido. L'egoista è sempre stupido. Chi fa soffrire gli altri è sempre stupido. Il colmo della stupidità è fare il male, il colmo dell'intelligenza è fare il bene. Anche i discepoli di Cristo cercano spiegazioni davanti al cieco dalla nascita, ricordate il Vangelo di Giovanni al capitolo 9. Maestro, chi ha peccato? Lui o i suoi genitori dal momento che è nato cieco? E Gesù dice né lui né i suoi genitori e non dà spiegazioni, lo guarisce. Ecco qui l'atteggiamento sciocco. Si chiacchiera tanto sul dolore e si fanno disquisizioni, forse si fanno anche conferenze e poi alla fine i sofferenti restano lì come prima. Facciamo meno chiacchiere, facciamo più fatti per sollevare il dolore, per guarire il dolore, per lenire il dolore. Gli ammalati non hanno bisogno di chiacchiere, i sofferenti non hanno bisogno di chiacchiere, hanno bisogno di conforto e di fatti, di sollievo. Di fronte a ogni sofferenza si possono prendere vari atteggiamenti, reagire in svariate maniere, ma tutto può ridursi a due comportamenti fondamentali che ho già anticipato prima: fare o filosofare. Cristo ha scelto il primo e ha comandato anche a noi di fare e di fare tutto per combattere il dolore. Sui fatti che noi avremo compiuto per alleggerire o per eliminare il dolore, verterà il giudizio finale nei confronti del mondo e di noi. Il giudizio di Dio verterà sulla nostra preoccupazione effettiva di porre fine alle sofferenze degli affamati, degli assetati, di chi non ha vestito, degli stranieri, degli ammalati, dei prigionieri. La parabola del giudizio finale, Gesù dirà: avevo fame e aver fame è soffrire e tu mi hai dato da mangiare, mi hai tolto la sofferenza. Avevo sete e la sete è sofferenza e tu mi hai dato da bere. Ero nudo, avevo freddo e tu mi hai vestito, mi hai tolto il dolore del freddo. Ero senza casa e quindi impaurito, fuori, alla mercé di tutti i malintenzionati o delle intemperie e tu mi hai tolto di dosso questa sofferenza ospitandomi in casa. Ero malato e quindi sofferente, tu sei venuto a visitarmi, a sollevarmi, a far qualche cosa. Ero in galera e tu ti sei interessato di me. Questi sono i fatti, così si combatte il dolore, Cristo ha fatto così, il cristiano deve fare così. Quindi, bando alle chiacchiere, facciamo i fatti. Per i filosofi il male è un problema, per Cristo e per i cristiani il male è un nemico, uno scandalo, una provocazione, ed esige una protesta, una mobilitazione di tutti e di tutte le energie, una rivolta. Non si spiega il male, lo si combatte. Dobbiamo renderci conto che Dio vede la sofferenza in un modo diverso da come la vediamo noi. Dio ha una concezione molto positiva sulla sofferenza, vista come mezzo, al punto che egli stesso accoglie in sé e per sé il dolore come strada necessaria per la salvezza degli altri e per la sua realizzazione di uomo Dio. Ai discepoli di Emmaus Gesù spiega: non bisognava che il Cristo sopportasse queste sofferenze per entrare nella sua gloria. Questo non bisognava manifesta la volontà di Dio. Era volontà di Dio che Cristo sopportasse queste sofferenze per entrare nella sua gloria. E nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 12, Gesù dice agli apostoli: in verità vi dico, e voi sapete che questa espressione vuol dire state attenti che sto dicendo una cosa veramente importante, se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo, se invece muore, produce molto frutto. La morte del chicco di grano è la vita di uno stelo e di una spiga. Secondo il modo di vedere di Dio e nell'esperienza di Gesù, la sofferenza della passione sfocia nella gloria della risurrezione. La morte di uno, la morte di Cristo, è la vita di tutti. Ecco allora che dobbiamo chiederci, ma se questo è capitato per l'uomo Cristo Gesù, se la sua morte è stata vita per tutti, la mia sofferenza, la mia passione, la mia partecipazione alla passione di Cristo, la mia morte partecipata alla morte di Cristo, ha un significato? E la risposta è, ha sì un significato, e un significato molto positivo, perché misteriosamente nella vita di ogni uomo è Cristo che nasce di nuovo, che vive di nuovo, che soffre di nuovo per la salvezza del mondo intero e soffre per amore, e che offre la sua vita nel momento della morte come atto più grande di obbedienza e di totale consegna di se stesso tra le braccia del Padre. Riprendiamo questo nostro parlare, questa riflessione sul patire di Cristo e poi di conseguenza sul significato del patire nostro. L'uomo, ognuno di noi, non sa assolutamente liberarsi dal suo egoismo di grano sterile che non vuol morire per dare la vita ad altri e pensa di trovare la vita conservandola per se stesso. Sentite invece che cosa dice Gesù nel Vangelo di Matteo al capitolo 10. Chi avrà trovato la sua vita la perderà. E chi avrà perduto la sua vita per causa mia la troverà. È perdendo la nostra vita che troviamo la nostra vita realizzata in Cristo, e chi tiene per sé egoisticamente la propria vita la perde, perché alla fine non raccoglie nulla, perché non ha avuto il coraggio di seminare nulla. E seminare vuol dire dare, dare a piene mani, spendersi, espandersi. La sofferenza dell'uomo e del mondo è un radicale mutamento, è una spinta forte verso una vita diversa e migliore. Per questo la crescita di ogni vita è lacerazione, sbriciolamento, trauma, morte. È una legge generale. Pensate, per avere una farfalla bisogna che muoia la crisalide, il bruco, se volete. Per avere un pulcino bisogna avere il coraggio di perdere un uovo, che non è poi perso, è guadagnato, perché nasce un pulcino. Per avere la messe del grano bisogna avere il coraggio di buttare via il grano, seminarlo, con rischio di perderlo, perché non si sa poi se lo raccoglieremo. Ci sono i rischi delle intemperie, dei roditori, degli insetti, degli uccelli. Per avere un palazzo nuovo, un grattacielo, bisogna avere il coraggio di demolire la baracca che prima occupava il terreno. Ricordate quello che dice la liturgia eucaristica funebre per la messa dei morti. Ai tuoi fedeli, o Signore, la vita non è tolta ma trasformata. E mentre si distrugge la dimora di questo esilio terreno, diciamo pure la baracca di questa vita presente, viene preparata un'abitazione eterna nel cielo, un palazzo splendido da paradiso. Che cosa ha fatto Cristo attraverso il mistero della sua Pasqua? Il mistero pasquale è un passaggio, voi sapete che Pasqua significa appunto passaggio, e che passaggio? Il passaggio da una vita all'altra, da questa vita a quell'altra, è morto a questa vita ed è risuscitato all'altra. La vita eterna deve essere, la vita nostra terrena presente, deve essere necessariamente snidata dalla sua tranquillità, diciamo pure dal suo egoismo, sottoposta a un passaggio segnato dal sangue, come è stato il passaggio di Cristo, un passaggio verso la morte che è l'ultima tappa prima della vita eterna. Non si può entrare definitivamente nella vita eterna se non si esce da questo mondo passando attraverso l'ultima tappa, quella della morte. Leggendo il Nuovo Testamento, noi abbiamo una bellissima sintesi in cui le sofferenze, le persecuzioni, qualunque forma di dolore il cristiano incontra, subisce, tutto questo dolore è paragonato alle doglie del parto. Ossia, il cristiano non soffre per niente, come una donna che ha le doglie del parto non soffre per soffrire, ma per mettere al mondo una creatura, un figlio, e quando ha tra le braccia il suo bambino si dimentica che gli è costato le doglie del parto. Allora c'è da chiedersi se quelli che non vogliono soffrire producono qualche cosa, producono vita, questo mondo, sono sterili. Il cristiano sa che i dolori che deve affrontare nella vita sono le doglie del parto per la nascita di un mondo nuovo, prima di tutto per la nascita di un uomo nuovo dentro di sé e per collaborare con Dio perché nasca un mondo nuovo negli altri. Leggo dalla lettera di Paolo ai Romani, capitolo 8. Io ritengo infatti che le sofferenze del momento presente non sono paragonabili alla gloria futura che dovrà essere rivelata in noi. Sappiamo bene infatti che tutta la creazione geme, soffre fino ad oggi nelle doglie del parto. Essa non è la sola, ma anche noi che possediamo le primizie dello Spirito gemiamo interiormente aspettando l'adozione a figli, la redenzione del nostro corpo. Le sofferenze della nostra vita sono le doglie del parto perché dentro di noi deve nascere l'uomo nuovo, la creatura nuova, il figlio di Dio, della statura adulta del Cristo. Ritorniamo all'esempio che ci dà il Vangelo di Giovanni. La madre vuole i dolori del parto, ma non i dolori per i dolori, ma perché sono un passaggio obbligatorio per avere il figlio. Li vorrebbe anche il figlio se sapesse che rappresentano la condizione perché da embrione diventi uomo, venendo alla luce. Ecco allora la citazione dal Vangelo di Giovanni al capitolo 16. La donna, quando partorisce, è afflitta perché è giunta la sua ora, ma quando ha dato alla luce il bambino non si ricorda più dell'afflizione per la gioia che è venuto al mondo un uomo. Così anche voi ora siete nella tristezza, ma vi vedrò di nuovo e il vostro cuore si rallegrerà e nessuno vi potrà togliere la vostra gioia. In quel giorno non mi domanderete più nulla. Quante persone io ho sentito. Quando poi arriverò di là, se ci arrivo su in paradiso, io ho qualche domanda da porre al Padre Eterno perché non mi è mica chiara qui la situazione. Gesù ha già detto, certo che qui capite poco, capite nulla, ma quando arriverete di là non avrete più domande da fare perché vedrete le cose nel modo giusto e non ci sarà più bisogno di porre delle domande, perché noi poniamo tante domande, perché vediamo il ricamo sul lato rovescio. Quello dritto, il lato buono, lo vedremo in paradiso, vediamo l'arazzo se volete, il tappeto. Dalla parte rovescia, e ci sembra una roba brutta, ci sembrano dei fili che vanno qua e là senza senso, senza costrutto. È meglio vedere il rovescio in questa vita e il dritto dall'altra, nell'altra vita, che vedere il dritto di qua e il rovescio dall'altra parte. Allora, ecco che arriviamo al dunque. L'uomo si supera attraverso la sofferenza. L'uomo, per fare dei passi avanti, per diventare adulto, per diventare più uomo, ha l'esigenza di affrontare delle cose faticose, dolorose, per diventare di più migliore. Voi spiegatemi perché uno si arrampica su per le montagne facendo delle scalate con pareti di sesto grado, perché non sta a casa seduto su una poltrona? Perché quando arriva in cima è soddisfatto, si sente diverso, migliore di quello che era prima di partire. Perché i corridori fanno il Giro d'Italia o il Tour in Francia, per fare 3.000 chilometri, andando in più fretta che possono. Dici, ma perché? Perché vogliono guadagnare qualcosa, vogliono dimostrare agli altri che loro sono più bravi degli altri. Ecco, allora, vivere, che cos'è vivere? Uno sa, vivere è amare, certo, ma ricordati che amare è morire. In che senso? Semplicissimo. Tu, uomo, vuoi amare una donna, devi incominciare a morire a tante tue forme personalistiche di egoismo, di capriccio, di per fare spazio a un'altra persona nella tua vita. Vivere e amare, e amare e morire. Amare significa uscire da se stessi, dimenticarsi, sacrificarsi, cancellarsi, negarsi per gli altri. Essere altruisti, e per essere altruisti bisogna dire faccio spazio agli altri, tiro via il mio egoismo per dare agli altri amore, per essere dono, non disgrazia nei confronti degli altri. Ebbene, la morte che cos'è? La morte rappresenta l'annullamento completo di sé e se accettata è il vertice dell'amore. La morte per ognuno di noi sarà uscire completamente da noi stessi per fare dono della nostra vita al legittimo proprietario che è Dio. Oh Dio, abbandono la mia zattera che sta andando a fondo per montare sulla tua zattera che galleggia in eterno. La morte per gli altri è la sola testimonianza indiscutibile di un amore senza egoismo. Ce ne fossero al mondo di persone che muoiono al proprio egoismo, alla propria cretineria, alla propria malvagità, che muoiono anche fisicamente perché gli altri possano vivere felici. Purtroppo il mondo è pieno di gente che ammazza gli altri, non di persone che danno la vita agli altri. Ed ecco Cristo, Gesù, Dio, che muore per amore verso il Padre e verso noi uomini. E noi uomini cosa facciamo adesso? Perché Cristo non ci ha chiesto il parere? Posso andare a morire sulla croce? Perché gli avremmo detto di no. Voi ricorderete il povero Pietro, quando sente Gesù che dice vado a Gerusalemme a morire, poi dopo 3 giorni risusciterò. Gli sbarra subito la strada dicendo questo non deve avvenire, Dio te ne scampi, Signore. E voi dite, certo, Pietro voleva bene a Gesù e quando uno vuol bene a una persona non vuole che la persona muoia, certamente. Ma penso che sotto ci sia di peggio. Pietro ha detto in se stesso, bisogna che io fermi sto matto qui, perché se questo va a morire sulla croce per me, dopo ci devo andare anch'io. Più che per amore verso Cristo, lo ha fatto per non dovere poi avere anche lui una risposta generosa come quella di Cristo. E noi ricordiamo che poi viene a galla questa triste verità quando Pietro nel cortile del sommo sacerdote viene interpellato, anche tu sei uno di quelli, sei un amico di questo Gesù, nega e rinnega Cristo 3 volte giurando o spergiurando. E perché Pietro nega Cristo? Perché non ha rinnegato se stesso, perché ha detto io salvo la mia pelle, crepi Cristo, ma io voglio andare via con la pelle addosso, voglio andare via vivo. L'amore è riuscire a morire per un altro, non dire crepi l'altro, mors tua vita mea, come si dice, perché il latino per certe cose è rimasto ancora, soprattutto sulle frasi che fanno comodo, crepa tu purché possa vivere io. L'uomo è chiamato a imitare Cristo, ossia a morire per amore verso Dio e verso i propri fratelli. E è questo l'amore infinito, il più grande, l'ha detto Gesù nel capitolo 15 del Vangelo di Giovanni. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici. E Gesù, come ci ricorda Paolo nel capitolo 15, nel capitolo 5 della lettera ai Romani, dice «Dio ha manifestato il suo amore per noi perché ha mandato il suo figlio a morire non per degli amici, ma quando noi gli eravamo ancora cordialmente nemici, quando eravamo peccatori, quando eravamo ancora immersi totalmente nella nostra miseria, nel peccato». Cristo ha avuto un amore infinito per noi. Purtroppo, sfortunatamente, il nostro amore non è infinito, non è libero da egoismo, non è puro. Ed ecco allora qui la presenza provvidenziale della sofferenza, che è come il detersivo in una lavatrice per tirare via lo sporco dai panni, e nella vita dell'uomo la sofferenza è il detersivo per grattargli via di dosso l'egoismo. La sofferenza è il solo mezzo per la nostra purificazione, il mezzo per ridurre in noi stessi l'egoismo, per eliminarlo del tutto, ma purtroppo non ci arriveremo mai, e per fare spazio all'amore, perché tutto il posto occupato dall'egoismo è posto sottratto, rubato all'amore. La sofferenza non è qualcosa di accidentale o di incidentale, ma è la via per arrivare all'amore, quindi per arrivare a Dio. Gesù l'aveva detto: volete seguire me che vi porto da Dio? Prendete ogni giorno la vostra croce, la vostra sofferenza. Per il credente la sofferenza non è assolutamente un'assenza di Dio, ma una presenza d'amore. Quando soffro è Dio che mi stringe più forte del solito a sé. L'autore dell'Imitazione di Cristo dice: senza dolore non si vive nell'amore, e questo vale per il nostro amore nei confronti di Dio, ma vale anche per il nostro amore nei confronti del prossimo, ma vale anche per qualunque forma di amore, anche quello più umano. Quando uno ama deve soffrire, se non altro al pensiero che questo grande amore potrebbe anche venir meno, e questo gli produce dentro una sofferenza tanto grande quanto è l'amore che prova per la persona amata. Concludo questa riflessione citando un filosofo del nostro secolo, Maurice Blondel. Scrive: come nessuno ama Dio senza soffrire, così nessuno vede Dio senza morire. Nessuna volontà è buona se non è uscita da se stessa per lasciare tutto lo spazio all'invasione della volontà di Dio. Riprendiamo la nostra riflessione sulla sofferenza di Cristo e il significato della morte di Cristo e della morte del cristiano. Gesù non ha subito una morte qualsiasi per motivi indefiniti. Non si sa perché sia morto, no, non lo sappiamo bene, lo dice il Vangelo. Fu arrestato, giudicato, condannato e ucciso per motivi precisi e da poteri ben determinati. Il conflitto fra Gesù e i capi del popolo ebraico scoppia violento fin dai primi incontri. Appena Gesù incomincia la sua vita pubblica, tennero consiglio per eliminarlo, dicono i Vangeli. E questo conflitto tra Cristo e i rappresentanti del popolo di Israele diventerà sempre più insanabile fino all'uccisione di Gesù. Il complotto degli uomini contro Gesù è presente in tutto il racconto dei Vangeli e sfocia in due processi lungamente descritti e particolareggiati. Gesù crocifisso non è altro che Gesù condannato dai poteri civili, l'impero romano rappresentato da Ponzio Pilato, e dai poteri religiosi, il sommo sacerdote, con i 70 componenti del Sinedrio di Israele. Gesù perde il processo religioso davanti alla sua chiesa, alla sua comunità, al suo popolo. Viene dichiarato un falso profeta. Secondo la valutazione del sommo sacerdote del Sinedrio, il Dio che Gesù è venuto a rivelare, di cui Gesù parla, il Dio che egli dice di essere o pretende di essere, non è il Dio della sua chiesa ebraica. Tu parli di un altro Dio, non è il nostro, non è il Dio dell'Antico Testamento, non è Yahweh. E pensate, era lui in persona, Yahweh. Perché queste persone hanno rifiutato Dio diventato uomo? È un mistero. Perché ancora oggi noi spesso rifiutiamo questo Dio diventando uomo, bestemmiandolo, perché se Dio è così noi non lo vogliamo? Ma perché Gesù guarda l'uomo? i suoi interessi, la sua salvezza. La legge suprema di Gesù è l'uomo, amare l'uomo, salvare l'uomo, portare l'uomo da Dio. L'ha detto lui, il Padre mi ha dato questo comando, che io non perda nulla di ciò che egli mi ha affidato, ma lo risusciti nell'ultimo giorno, sia il Padre mi ha mandato per salvare tutto e tutti. Per i suoi avversari, ossia il sommo sacerdote, gli scribi, i farisei, il sinedrio, sono importanti la legge, la tradizione, la burocrazia, le scartoffie. Mi riferisco proprio al Vangelo di oggi. Loro dicono: come mai i tuoi discepoli non si lavano le mani? E dice Gesù: ma lavatevi la coscienza, che siete lerci dentro. Quello è il problema dell'uomo, non lavare o non lavare le mani. I suoi avversari non si preoccupano affatto dei peccatori, dei poveri, ma solo della legge e della sua applicazione. E siccome i peccatori, secondo loro, sono nemici di Dio, si sentono autorizzati da Dio a picchiarli selvaggiamente, così Dio è contento. Odio i tuoi nemici, o Dio, e quindi divento tuo amico. Ma Dio non ha detto a nessuno di odiare gli altri, anzi ha detto: amate i vostri nemici e fate del bene a quelli che vi odiano. Chissà quante volte anche noi ci inventiamo il Vangelo secondo la cretineria della nostra testa e la cattiveria del nostro cuore. Gesù proclama: il sabato è fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato. Ricordate che il sabato era praticamente la grande legge di Israele. Il giorno di sabato è dedicato a Dio, e quindi guai a chi trasgredisce tutte le leggi, le norme, le tradizioni. E Gesù quasi ostentatamente butta all'aria tutto quello che di umano avevano messo addosso a questo sabato, a questo giorno per Dio, e dice: anche il sabato, sia il culto per Dio, è a favore dell'uomo. Se serve all'uomo, bene; se non serve all'uomo, buttatelo via, perché il valore supremo a questo mondo è l'uomo, non le leggi, neanche i 10 comandamenti, neanche il Vangelo. Il Vangelo è a servizio dell'uomo, non l'uomo a servizio del Vangelo. Il sabato è fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato. La religione è fatta per l'uomo e non l'uomo per la religione. La religione è a servizio dell'uomo, perché Dio in persona è a servizio dell'uomo, l'ha detto Gesù. Io sono venuto per servire. L'uomo religioso di allora, e forse anche qualcuno oggi, faceva di Dio il nemico dell'uomo. Ancora oggi quante persone, per difendere la verità, e diciamo subito, la verità non ha bisogno di essere difesa, si difende da sola. Per difendere Dio si schiera contro Dio, non ha bisogno di difensori, si difende da sé. Per difendere la santa religione, la religione non ha bisogno di essere difesa, ci pensa già Gesù Cristo a difendere. Dio non ha bisogno di avvocati difensori. Anzi ha detto: ma quando venite da me, ma fate gli avvocati difensori del vostro prossimo peccatore, venite a intercedere, a chiedere misericordia, non venite a stuzzicarmi perché io li castighi. Pregate sempre chiedendo misericordia, non vendetta dal cielo e castighi. Tanto è vero che il Padre ha, il Figlio e lo Spirito Santo, ce li ha dati tutti e due come nostri avvocati difensori nei suoi confronti. Allora, la rivolta di Gesù contro i padroni della legge, che sono gli scribi, farisei, sadducei, le classi dominanti d'allora, i ricchi, diciamocelo pure fuori dai denti, è una rivolta in favore dei piccoli, degli oppressi da un giogo insopportabile. Venite da me voi che siete stanchi, affaticati, oppressi dai 613 precetti che vi hanno insegnato i vostri scribi e farisei. Venite da me. Vi do io una religione veramente dolce, che vi dà serenità, che vi restaura, che vi ristora, che vi fa vivere, non che vi opprime e vi schiaccia. Ricordiamo che nel capitolo 23 di Matteo ci sono le 7 lamentazioni, i 7 guai rivolti agli scribi e farisei. Guai a voi scribi e farisei ipocriti. E faremmo bene leggere spesso quel brano per vedere se per caso nella categoria ci siamo dentro poco o tanto anche noi. Abbiamo detto che Gesù Cristo viene condannato dall'autorità religiosa del suo popolo, quindi perde il processo. Gesù perde il processo civile davanti all'autorità politica, di fronte all'impero romano. Pilato dichiara ben 3 volte nel Vangelo di Giovanni: io non trovo in lui nessuna colpa, e allora mandalo via, si direbbe. Ma ecco il Vangelo che puntualizza: ebbe paura crescente del tumulto del popolo, e allora lo consegnò loro perché fosse crocifisso. L'egoismo di Pilato. Sì, non è giusto che muoia innocente, ma insomma è sempre meglio che crepi lui piuttosto che io perda il cadreghino. Questo è stato il discorso di Pilato. Dio è condannato dai poteri, quelli di allora ma anche quelli di oggi, condannato perché vuole essere libero e liberatore. Il peccato del mondo è soprattutto il potere che schiaccia il debole e condanna l'innocente. Il potere pubblico o privato che domina invece di servire, che sfrutta invece di amare. Bisogna che tutti i cittadini italiani finiscano di fare i servi e gli schiavi degli ufficiali di Stato o del governo. Il governo deve servire noi, non noi dobbiamo servire il governo. Tutto deve essere a servizio dell'uomo, della coppia, della famiglia. Diversamente si tirano via sti padroni abusivi, perché va da lì qualcuno che fa il nostro affare, il nostro interesse. Oltretutto li paghiamo noi. Fu chiesto un giorno a Raoul Follereau, che voi conoscerete senz'altro perché è stato l'apostolo che ha girato tutto il mondo per sollecitarci a porre un rimedio alla lebbra. Gli chiesero un giorno: quando tu hai scritto a Khrushchev e a Eisenhower che se avessero rinunciato a un aereo da bombardamento ciascuno, quindi un aereo, un bombardiere in meno per gli americani, un bombardiere in meno per i russi, tu avresti potuto curare tutti i lebbrosi del mondo con quei soldi? Hai avuto risposta dal presidente degli Stati Uniti e della Russia? E Raoul Follereau rispose no. E aggiunse un'osservazione intelligente, ma tanto, tanto preoccupante. Rispose: nella potenza e nella ricchezza esiste un confine oltre il quale non si è più né americani né russi, né cristiani né atei, si è potenti, si è ricchi, si è disumanizzati, ossia a certi livelli si perde il cuore e la testa, si diventa persone che non sentono più il dolore dell'umanità. Ancora oggi abbiamo visto recentemente in Africa, anche altrove, morire centinaia di migliaia di persone solo perché uno Stato potente voleva sostituire un altro, perché lì c'è da arraffare tanto. Crepano 1 milione di persone, ma fa niente, basta che alla fine io possa andare a raccogliere le ricchezze del Congo, le ricchezze dell'Africa o di qualche altra parte del mondo, o il petrolio del Golfo. Pilato davanti a Gesù si richiama alla sua autorità e dice in una forma vanesia: non sai che io ho il potere di metterti in libertà e il potere di metterti in croce? Notate, Pilato non manda libero Gesù, non manda sulla croce Gesù perché ha delle ragioni. Sei innocente, ti mando libero, sei colpevole, ti faccio morire sul patibolo. No, decido io, arbitrio, posso mettere in croce gli innocenti e mandar via i colpevoli. Non sai che io ho il potere di metterti in libertà e il potere di metterti in croce, prescindendo da tutto, dalle scartoffie, dagli esiti del processo, che tu sia innocente o colpevole, faccio io quel che voglio, sono io il padrone. Ma Gesù rifiuta l'assoluto di questa autorità, gli dice: l'autorità che eserciti in questo momento su di me te l'ha data il Padre mio, perché abbiamo un progetto di salvezza da realizzare. E Gesù non si ribella, subisce le inique conseguenze di questo verdetto di condanna senza ribellarsi e si incammina verso il Calvario portando la sua croce. L'insegnamento di Gesù è inequivocabile. Leggo dal Vangelo di Matteo al capitolo 5. Io vi dico di non opporvi al malvagio, anzi, se uno ti percuote la guancia destra, tu porgigli anche l'altra, e a chi ti vuole chiamare a giudizio per toglierti la tunica, tu lasci anche il mantello, e se uno ti costringerà a fare un miglio, tu fanne con lui due. Allora diciamo, come si deve fare nel mondo d'oggi? Qui non possiamo mica essere quelli sempre che cedono, se no i prepotenti prendono un ardimento e diventa un disastro. O basterebbe ricordare quello che ha detto Gesù: io vi mando come agnelli in mezzo ai lupi. Tutti i commenti guasterebbero la sinteticità di questa frase del Vangelo. Sappiamo già in partenza la fine dell'agnello in mezzo a un branco di lupi. E Gesù è l'agnello di Dio che è venuto in mezzo agli uomini di questo mondo che erano e sono un branco di lupi. E i cristiani che vanno a messa la domenica, vanno dentro alle volte rovinati, sono ridiventati lupi, però mangiando l'agnello di Dio nella comunione diventano a loro volta come Cristo, agnelli che vanno fuori a farsi mangiare dai lupi, perché a loro volta anche questi lupi rapaci del mondo, mangiando l'agnello, diventino agnelli. Forse noi non abbiamo capito, non vogliamo capire questa trafila, questa missione, questo dovere. Vi mando come agnelli in mezzo ai lupi. E alla fine, dice l'Apocalisse, è l'agnello che ha vinto, non il lupo. Secondo Cristo, il rimedio contro le forme di oppressione e contro l'arroganza dei poteri politici e religiosi non è la lotta, ma la debolezza e l'umiltà dell'amore. La debolezza e l'umiltà di Dio. Giratela come vi pare, ribellatevi pure. Così ha detto e così ha fatto. Volete pensarla diversamente, far diversamente? Padroni di farlo, ma sappiamo che Cristo ha detto così e ha fatto così. Il solo rimedio è uccidere l'odio prima di tutto dentro nel nostro cuore. Così si bonifica il mondo, amando sempre e non odiando mai nessuno. I nemici. Su questa linea è anche l'insegnamento della Chiesa, questa povera Santa Madre Chiesa a cui apparteniamo tutti noi, che insegna delle cose buone, anche se alle volte poi la nostra pratica di cristiani è molto al di sotto del livello degli insegnamenti di Cristo e del Magistero della Chiesa. Vi leggo due lunghe citazioni, una dalla Octogesima Adveniens, una lettera che il Papa Paolo VI ha scritto il 14 maggio 1971 per l'ottantesimo anniversario dell'enciclica Rerum Novarum, quindi Octogesima Adveniens, e poi dalla lettera Evangelii Nuntiandi, scritta dal Papa Paolo VI, l'8 dicembre 1975. Leggo questo documento così come sta, senza farvi dei commenti, perché se ascoltiamo con cura è un testo molto ispirato, molto evangelico, parlante. Scrive il Papa: oggi gli uomini aspirano a liberarsi dal bisogno e dalla dipendenza. Ma questa liberazione si inizia con la libertà interiore che essi devono recuperare dinanzi ai loro beni e ai loro poteri. Essi mai vi riusciranno se non tramite un amore che trascenda l'uomo e di conseguenza tramite un'effettiva disponibilità al servizio. Altrimenti, e lo si vede fin troppo, anche le più rivoluzionarie ideologie otterranno solo un cambio di padroni. Insediati a loro volta al potere, i nuovi padroni si circondano di privilegi, limitano le libertà e permettono che si instaurino altre forme di ingiustizia. La Chiesa reputa certamente importante e urgente edificare strutture più umane, più giuste, più rispettose dei diritti della persona, meno oppressive e meno coercitive. Ma la Chiesa è cosciente che le migliori strutture i sistemi meglio idealizzati diventano presto inumani se le inclinazioni inumane del cuore dell'uomo non sono risanate, se non c'è una conversione del cuore e della mente di coloro che vivono in queste strutture e le dominano. La Chiesa non può accettare la violenza, soprattutto la forza delle armi, né la morte di nessuno come cammino di liberazione, perché sa che la violenza chiama sempre la violenza e genera irresistibilmente nuove forme di oppressione e di schiavitù più pesanti di quelle dalle quali la violenza pretendeva liberare. Lo dicemmo chiaramente nel nostro viaggio in Colombia. Vi esortiamo a non porre la vostra fiducia nella violenza né nella rivoluzione. Tale atteggiamento è contrario allo spirito cristiano e può anche ritardare e non favorire l'elevazione sociale alla quale legittimamente aspirate. Dobbiamo dire e riaffermare che la violenza non è né cristiana né evangelica e che i mutamenti bruschi o violenti delle strutture sarebbero fallaci, inefficaci in se stessi e certamente non conformi alla dignità del popolo. E Paolo VI continua con questa frase al numero 38 dell'Evangelii Nuntiandi. La liberazione che proclama e prepara l'evangelizzazione è quella che Cristo ha annunziato e donato all'uomo mediante il suo sacrificio, ossia Cristo ci ha liberati morendo Lui, non ammazzando gli altri. La passione e la morte di Cristo ci vengono presentate dalla Bibbia come sacrificio, riscatto, redenzione, salvezza, remissione dei peccati ed altre espressioni simili. La parola redenzione nella Bibbia è ripetuta centinaia di volte, mi sembra 600 volte circa. E troviamo espressioni di questo genere che però vanno ben capite, perché se no qui scadiamo a livello del mercatino rionale. Il prezzo di questo riscatto e di questo acquisto è stato il sangue di Cristo. Ed ecco allora subito la fantasia che si scatena. L'uomo, l'umanità, era nelle mani del diavolo. Allora il Padre Eterno dice al diavolo: mettiamoci d'accordo. Io ti do mio figlio, te lo mangi, bevi il suo sangue, in cambio mi dai indietro l'umanità. È un pensiero stoltissimo, assurdo e blasfemo. Non ha niente a che vedere con questo. Leggiamo le frasi in Efesini, leggiamo: abbiamo la redenzione mediante il suo sangue. Nella prima lettera a Timoteo, Gesù Cristo ha dato se stesso in riscatto per tutti. Nell'Apocalisse, tu Cristo sei stato immolato e hai riscattato per Dio con il tuo sangue uomini di ogni tribù, lingua, popolo e nazione. E nella prima lettera ai Corinti di Paolo Apostolo leggiamo: siete stati comprati a caro prezzo. Non ci hai visto allora? La moneta con cui il Padre Eterno ha comperato l'umanità per averla indietro, riaverla indietro da Satana, la moneta, l'assegno è stato Gesù Cristo. Ti do mio figlio, dammi indietro gli uomini. Assolutamente no. Nella messa ci viene ripresentato il corpo di Cristo offerto in sacrificio per noi e il sangue di Cristo versato per tutti in remissione dei peccati. Voi sapete che la parola sangue per gli ebrei vuol dire la vita. Anche per noi, uno che perde il sangue perde la vita. Il sangue è la vita. Ho dato il mio sangue ai miei figli, vuol dire ho dato la mia vita. Il sangue di Cristo non è stato versato come riscatto al diavolo. Non si tratta di una transazione commerciale per l'acquisto dell'umanità, per il passaggio di proprietà da Satana a Dio. Dio non è sceso a patti con nessuno e non ha contrattato l'umanità con nessuno. Non è neppure un prezzo pagato a Dio per soddisfare la sua giustizia, la sua collera. Dio era assetato di sangue perché gli uomini gliel'avevano combinata grossa e allora ha detto: paghi chi paghi, non mi interessa, purché il mio onore sia di nuovo rimesso in auge. Quindi, visto che l'umanità non è in grado di pagare, mando mio figlio e poi me la prendo con lui. Insomma, io sono furioso, qualcuno la deve pagare. Assolutamente no, Dio non è un giustiziere sanguinario, Dio è amore e può fare solo quello che l'amore può fare, ossia fare il bene e voler bene. Tutte le altre idee buttiamole via, che sono da pazzi, idee blasfeme, diaboliche. Quanta gente ha la convinzione che Dio è rabbioso, è cattivo, è egoista, insomma è un Dio crudele, sanguinario. Assolutamente no, Dio è amore e non è nient'altro che amore, quindi un amore che fa solo del bene e che ama. E allora Dio non è un giustiziere sanguinario, non è un usuraio rapace a cui non interessa la provenienza del riscatto. Paghi l'umanità, paghi mio figlio, poco importa, io voglio indietro i miei quattrini. Che sacrifica l'innocente Cristo al posto del colpevole, l'umanità, perché qualcuno paghi e gli restituisca il suo avere. Quante persone hanno in testa queste idee blasfeme e balorde? Se Dio è amore, come è scritto nella Bibbia, dobbiamo eliminare dal mistero cristiano tutto quanto non è amore da parte di Dio. Tutti i residui delle idee pagane che stentano a morire dentro di noi. Visto che si parla qui di redenzione, vorrei fare una piccola digressione. Si parla di redenzione soprattutto quando Dio libera il popolo di Israele dal potere del faraone d'Egitto. Si dice: ha liberato, ha riscattato il suo popolo dal potere dell'Egitto. Secondo noi, liberare, riscattare, pagare un riscatto vuol dire: io do qualche cosa per avere indietro la persona riscattata, liberata. Provate a leggere la Bibbia, vedete che cosa ha versato Dio al faraone d'Egitto. Non gli ha dato un bel niente, anzi, gli ha dato un mucchio di legnate. Pensate alle 10 piaghe d'Egitto, quindi il faraone non ha guadagnato niente, Dio non gli ha versato nessun riscatto. Ecco allora che questi concetti vanno liberati dalla mentalità da mercatino che purtroppo abbiamo nella testa. Dio dovrebbe piegarsi ad andare dall'ultimo stupido che abita in Egitto a dire: e allora vengo qui a contrattare per la libertà del mio popolo. Del Signore la terra e quanto contiene, l'universo e i suoi abitanti. Dio non ha bisogno di andare a elemosinare a nessuno né a pagare nessuno, perché è tutto suo. Cito una frase del cardinale Giuseppe Ratzinger, tuttora felicemente vivendo, che ci spiega qual è il vero pensiero della Bibbia, il vero pensiero del cristiano sulla redenzione e il riscatto di cui la Bibbia parla. Quasi tutte le religioni gravitano attorno al problema dell'espiazione dei peccati, come fare a farci perdonare da Dio. Esse si radicano nella coscienza che l'uomo ha della propria colpevolezza davanti a Dio e rappresentano un tentativo di placare il senso di colpa per vincere il peccato e la paura con azioni espiatorie da presentare a Dio. Allora, sono in debito con Dio, devo pagare offrendogli una bestia, sacrificando un agnello, un vitello, un toro. Dio è furioso nei miei confronti perché l'ho offeso, devo vedere di placarlo. E ancora oggi le religioni che non sono la religione cristiana hanno tanto terrorismo, tutte le pratiche religiose sono per tenersi buoni gli spiriti cattivi perché non vengano a nuocere, a far del male. Nel Nuovo Testamento, scrive Ratzinger, la situazione è quasi esattamente capovolta. Non è l'uomo che si accosta a Dio per presentargli un'offerta riparatrice dei suoi peccati, ma è Dio che si avvicina all'uomo per accordargli un dono, il perdono, gratis. Per iniziativa stessa della sua potenza amorosa, Dio restaura il diritto leso, giustificando l'uomo colpevole mediante la sua misericordia creatrice e richiamando alla vita colui che era morto a causa dei suoi peccati. Quindi l'uomo rompe e Dio aggiusta, l'uomo offende Dio e Dio lo perdona, l'uomo si rovina con i suoi peccati e Dio gli concede il perdono e lo rigenera, lo fa nuovo, lo fa creatura nuova. La giustizia di Dio è grazia, ossia un amore gratuito che salva l'uomo, non che castiga l'uomo. Qui ci troviamo davvero di fronte alla svolta portata dal cristianesimo nella storia delle religioni. Il Nuovo Testamento non dice che gli uomini si riconcilino con Dio, come del resto dovremmo attenderci. Sono loro che hanno torto, sono loro che hanno rotto, sono loro che hanno offeso, tocca a loro fare la prima mossa. No. È vero che gli uomini hanno sbagliato, ma è vero che è Dio che prende l'iniziativa. Il Nuovo Testamento, cito la seconda lettera ai Corinti, dice: è stato Dio a riconciliare a sé il mondo in Cristo. Tutto il lavoro, il peso, l'onere della riconciliazione, del riagganciare i contatti che erano stati strappati dall'uomo, tutto questo onere se l'è accollato, addossato Dio. Ricordate nel capitolo 15 del Vangelo di Luca, dove si dice che non è l'uomo che cerca Dio, ma è Dio che cerca l'uomo. La pecora perduta è l'umanità intera. Dio è andato alla ricerca di questa pecora disobbediente che si era perduta e la riporta in paradiso, non facendola camminare faticosamente sulle sue zampe, ma caricandosela addosso. Per cui è bellissimo quello che ha detto Giovanni Battista e quello che ci viene ripetuto ogni giorno nella messa: il Cristo è l'agnello di Dio che porta su di sé i peccati del mondo. Ma qui in questa parabola della pecora perduta, Cristo porta su di sé non solo i peccati, ma i peccatori, ossia si carica addosso tutta l'umanità peccatrice e la riporta a casa sua e fa una grande festa perché ha ritrovato l'umanità, la sua pecora che era andata perduta. È Dio che si assume il gravoso impegno della reintegrazione anche del figlio balordo, vagabondo, quello che viene chiamato tradizionalmente il figlio prodigo, ed è lui che scende dalla sua cavalcatura per raccogliere colui che era stato aggredito dai briganti e lasciato mezzo morto sul ciglio della strada. È proprio vero quello che scrive Gesù, che dice Gesù, e troviamo scritto nel Vangelo di Giovanni al capitolo 3, versetto 16. Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non muoia, non venga condannato, ma abbia la vita eterna. Dio non ha mandato il suo figlio nel mondo per condannare il mondo, per giudicare il mondo, per buttare il mondo nella dannazione, ma per salvare il mondo. Dio si fa uomo, diventa membro a pieno diritto di questa nostra umanità, ne diventa addirittura il capo, la testa. E in lui l'umanità intera offre a Dio un sacrificio d'amore. Finalmente c'è un uomo che dice di sì a Dio e si comporta come devono comportarsi tutti gli uomini. Gesù Cristo è per noi l'obbedienza assoluta a Dio, l'adesione a Dio fino alla morte, perché lo sappiamo per esperienza. Dire di sì quando le cose sono facili, sono di nostro gusto e tutto va bene, è facile, perché la volontà di Dio combacia con la mia, ma io dimostro per davvero di amare e di obbedire quando riesco a fare la volontà di Dio, che è esattamente l'opposto dei miei gusti e della mia volontà. E questa manifestazione, questa prova suprema la si può dare solo con la morte. Ossia, per me Dio è più importante di me stesso. Muoio a me stesso per entrare in Dio, perché Dio è più importante della mia vita. E quello che ha detto Gesù morendo sulla croce è quello che deve dire ogni cristiano. Ecco allora un tentativo, mal riuscito, stentato, per introdurci in una mentalità cristiana rispetto al valore della nostra vita, delle nostre sofferenze, delle sofferenze che ci accogliamo anche per una fedele osservanza dei comandamenti, per perdonare, per pregare, per vivere secondo il Vangelo, per portare quotidianamente la nostra croce insieme con Cristo. Questa è la strada percorsa dal Cristo, questa è la strada che deve percorrere il cristiano. E come Cristo è entrato nella vita eterna, è entrato in paradiso passando attraverso la morte, che è l'atto supremo di obbedienza a Dio e di amore a Dio, così deve fare ogni cristiano.